Friuli nel mondo. 163esima trasmissione dedicata agli emigrati. Villotte di Carnia. La saldezza morale della gente di Carnia, abituata alla fatica, alla privazione e alla lotta, sa esprimere ancora oggi la fedeltà alle tradizioni civili dei loro avi dall'anima gentile ed appassionata. Nel segno di queste tradizioni, vogliamo oggi dedicarvi alcune antiche villotte nate dal popolo sulle balze dei monti o lungo le stupende vallate carniche. Villotte antiche, come le cime d'argento dei monti, villotte semplici, come il cuore dei vecchi montanari. Ascoltate questo mazzetto di canti, dalla salda struttura armonica, su testi di vera purezza popolare, nella trascrizione di Claudio Noliani, che la corale Tita Birhebner di Tapogliano e Nogaredo al Torre, diretta da Giovanni Famea, ora esegue. Ecco nei titoli. Vuoi fa un cianta alla cerniele? Sulla crete di Culino. E iopile iopile. Il gnovoli al si rivolte. E notimegne maia sagre. E fur fur nuvice. Nus perdonis tu compagne. Alena sulta giviane. Nanà, nanà pupin, e lis fantatis riguladotis. Oh! Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.